la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 8 secondi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come tutti i pomeriggi per l'ascolto della versione di Oscar in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @24.it, e per continuare a chiedervi di segnalarvi per partecipare alle trasmissioni, ne abbiamo fatte già tre, su italiani fuori dall'Italia per formazione o per lavoro. Avete sentito le storie di chi è andato e non torna. Tra poco iniziamo con quelli che la pensano diversamente, e io anche a questi voglio dire continuate a scriverci, perché è iniziato a alcuni di voi ascoltando le puntate dicono sì, però un momento, aspetta un po', perché così sembra che sia fin troppo facile la via di cercare solo fuori. C'è anche chi invece l'ha provata e dice ma io ho deciso di rimanere qua, quindi ve ne proporremo alla prossima puntata alcune di queste storie, ma ci tengo a sottolineare che io sono interessato a entrambi i punti di vista per arricchire questa riflessione su perché c'è anche chi dice no, io sono consapevole ma preferisco provarci, non mi rassegno all'idea che bisogna andare. Ecco, detto tutto questo, di cosa parliamo oggi invece? Vi dico subito, se volete intervenire, 800 24 00 24, un numero. Parliamo della pronunzia di ieri della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. La mia domanda è semplice e secca: siete contenti di andare a votare? Vedremo quando, ma se le cose restano così, e vedremo con che problemi tecnici ancora, ma comunque con una legge elettorale di proporzionale pura, cioè tradotta, con i partiti a mani libere in campagna elettorale, mica devono dirvi con chi si alleano e per chi, vi diranno tutti che se gli date il 40% scatta il premio di maggioranza, sappiamo che nei sondaggi non ce l'ha nessuno e sono tutti ben molto lontani da quel 40%, significa mani libere per le alleanze, le eventuali coalizioni in campagna elettorale per i partiti, mani libere per i partiti nel Parlamento eletto successivamente, e vedremo con quali problemi poi per le maggioranze. Siete contenti? Perché una cosa è certa, col proporzionale puro, immagino molti di voi diranno finalmente si torna indietro, una legge elettorale che fotografa, no, le opinioni degli italiani. Sì, peccato che le leggi elettorali oltre a questo dovrebbero consentire la governabilità, cioè consentire agli elettori di scegliere che tipo di coalizioni vogliono che governino, per fare quali governi, e magari sapendo anche il candidato premier, anche se, lo sottolineo, la nostra forma di governo resta parlamentare nella Costituzione, però sapete che in realtà, sia pure in maniera impropria e spuria, il tentativo in questi anni è stato quello di farvi scegliere le coalizioni di governo e anche i nomi dei candidati premier, che però potevano cambiare poi nell'arco della legislatura, per carità, perché non abbiamo cambiato la forma di governo, non abbiamo una forma di governo con la scelta popolare del primo ministro, né tantomeno del Presidente della Repubblica, non siamo né un sistema presidenziale né un sistema del primo ministro. Però detto tutto questo, io vi chiedo, siete contenti? Se sì, diteci perché, se no, diteci perché. Allora, in questa trasmissione ho chiamato due tecnici, per così dire. Uno, naturalmente un ordinario di diritto costituzionale che vi presento tra poco, e un altro, il presidente dell'Istituto XE, che serve a farci capire un pochino cosa avverrebbe, risultati demoscopici alla mano, dalle preferenze attuali degli italiani e alla luce dell'evoluzione di quello che avete espresso alle domande quando vi chiamano per, come campione di sondaggio, per dire chi voteresti, per capire che cosa potrebbe avvenire con la legge elettorale che è auto-applicabile. In teoria si può anche andare a votare a giugno, secondo la definizione della Corte, sia pure con il problema di avere una legge elettorale per la Camera diversa da quella del Senato. In realtà, state attenti, io faccio solo quattro considerazioni prima di cedere la voce al primo ospite. Non è uno scandalo o un particolare problema che le due leggi elettorali siano diverse. In realtà sono sempre state, in alcuni particolari diversi, anche ai tempi della proporzionale, su diversi collegi per esempio, perché appunto c'è una menzione costituzionale sul fatto che il Senato è collegato a una rappresentanza regionale, per così dire. Ma il problema è che le leggi elettorali sono proprio diverse tra loro per gli effetti che inducono. Io non me la prendo con la Corte Costituzionale, sono molto curioso di vedere come verranno motivate le scelte della Corte. La motivazione è attesa, depositata circa tra 20 giorni, aspetteremo. Ma non me la prendo in ogni caso con la Corte, anche se questa legge elettorale di precipitato, per così dire, effetto delle correzioni di due leggi elettorali diverse, perché quella del Senato, il Consultellum, è per effetto delle bocciature che la Corte Costituzionale ha fatto al Porcellum, mentre questa della Camera è l'effetto della bocciatura di alcune parti fatte dalla Corte Costituzionale sull'Italicum. Quindi punto numero uno, sia la destra ha fatto leggi elettorali proclamate incostituzionali in alcune sue loro parti, e malgrado quel che dicesse la sinistra, che ha sempre accusato solo la destra di procedere con questi esiti, adesso anche la sinistra si vede la sua proposta, quella che il mondo ci invidiava, così diceva Renzi, bocciata nella sua parte fondamentale, cioè il ballottaggio. Non me la prendo con la Corte fino al primo punto, perché in tutti i 20 anni alle nostre spalle sono i maggiori partiti della destra e della sinistra che hanno la responsabilità di non aver mai disegnato una legge elettorale precisa. Tranne Mattarellum, poi tutte le volte che ci hanno messo mano erano i propri papocchi, in parte maggioritari, in parte proporzionali, con grandi poteri affidati ai segretari dei partiti per i candidati e così via, su cui a quel punto la Corte è intervenuta ogni volta. Questo non capita in nessun paese avanzato e oltretutto ora abbiamo consentito, tramite il diritto di accesso praticamente diretto, perché così nascono le cinque questioni sollevate da diversi tribunali nei confronti dell'Italicum, d'ora in poi un qualunque avvocato eccetera può porre il problema su una qualunque proposta di legge elettorale votata dal Parlamento e non ancora applicata, e d'ora in poi quindi sarà sempre la Corte Costituzionale a poter intervenire, perché è scontato che a questo punto membri dell'opposizione che non hanno votato un testo di legge elettorale adiranno a un tribunale e si va alla Corte. Non capita in nessun paese al mondo, e questa è la sconfitta totale dei partiti architrave della destra e della sinistra della Seconda Repubblica. È finita la Seconda Repubblica per me esattamente nel giorno, oggi è l'anniversario, oggi nel 1994, oggi Berlusconi annunciava la sua discesa in campo. Ecco, sarà un caso, ma nello stesso giorno, fino al primo punto, la prima Repubblica, quella maggioritaria, il potere degli elettori, è finita. Perché, secondo punto, poiché oggi nessuno è in grado di prendere il 40%, anche se diranno il contrario in campagna elettorale, se si va a votare col testo emerso ieri, appunto l'ho già detto, mani libere a Camera e Senato. Ma attenzione, soprattutto con le due leggi elettorali disegnate dagli interventi della Corte, che hanno effetti molto diversi tra Camera e Senato. Al Senato, per via degli elevati tetti per conseguire i quali si ha diritto alla rappresentanza e sulla base poi di un riparto regionale dei resti, ecco, i tetti sono molto alti, cioè coalizioni innanzitutto al Senato, ma il tetto è alto, il minimo l'8%. Alla Camera si parte invece di lista di partito, non di coalizioni, anzi l'effetto è disincentivante per le coalizioni, perché siccome i partiti prendono più voti da soli e si parla di liste, l'effetto è quello di disincentivare le coalizioni, e questo vale sia per la destra che per la sinistra. Siccome entrambi hanno problemi, a destra c'è un problema sulla leadership di Berlusconi, che oggi non si potrebbe presentare candidato premier, ma nel 2018 lui spera di sì, però insomma tra i no i sovranisti, cioè Lega e Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia, c'è un problema. Col proporzionale non c'è nessun incentivo alla Camera ad andare insieme, c'è invece l'incentivo a prendere più voti se ci si separa. A sinistra del PD rispetto al PD vale lo stesso ragionamento col proporzionale puro alla Camera, e idem dicasi per eventuali problemi interni tra minoranza del PD e PD renziano. Quindi due leggi elettorali diverse. Si può, come è ovvio, pensare di estendere al Senato meccanismi correttivi analoghi alla Camera? Sì, si può, bisogna vedere come, con quanto tempo, e comunque ci si allinea a quel punto al proporzionale totale, perché se si prende la pronuncia della Corte sul Senato, lì neanche teoricamente si può mettere il premio di maggioranza al 40%. Quindi terzo punto, possibilità di coalizioni coese, anche se fatte a mani libere dai partiti, abbastanza problematiche, molto problematiche. Cioè oggi è più probabile una maggioranza di partiti che non dichiarino in campagna elettorale se sono anti-euro o sovranisti, anti-europei, di potersi mettere insieme per questo eccezionale evento di svolta nella legislatura, eletti tutti sul proporzionale senza degli elettori prima, di quanto non sia più probabile invece comunque quello che sarebbe necessario per impedirlo, cioè una maggioranza tra PD e Forza Italia. Come vedete sono tutte cose problematiche. Quarto punto e ho finito, sono davvero curioso di vedere per quale ragione però la Corte Costituzionale non ha toccato i capilista bloccati, potere affidato quindi al segretario dei partiti, le pluricandidature fino a 10 collegi, e si è inventato poi il meccanismo del sorteggio in caso però di scelta lista di plurieletti in più collegi si estrae a sorteggio. Il sorteggio era già presente nell'Italicum, ma come scelta residuale in caso di mancata scelta del candidato eletto. Ma mi sono incuriosito per capire quali siano le giustificazioni costituzionali per cui questo potere ai segretari del partito viene comunque mantenuto, perché è comunque un'ulteriore limitazione, pare a me, alla libertà di espressione del corpo elettorale. Ecco, queste mie quattro osservazioni che non nascondono la problematicità, può essere che dipenda dal fatto che io sono un pessimo interprete della decisione della Corte. E allora sentiamo il nostro primo ospite, che è il professor Luca Antonini, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, mi dice innanzitutto, sorpreso del responso, e come ne legge, sia pure anche lei in assenza di motivazione, ma con ben più dottrina di me, il precipitato di questa decisione della Corte Costituzionale? Ma allora, sorpreso non più di tanto, direi. Qui la Corte aveva l'alternativa di fare o meno una sentenza autoapplicativa. Cioè, sicuramente non sono sorpreso dal fatto che abbia dichiarato illegittimo la questione del premio di maggioranza assegnata a chi vince il ballottaggio. Questa era stata una totale ingenuità dell'Italicum. Era chiaro che con la sentenza del Porcellum i medesimi rilievi che la Corte aveva fatto sul Porcellum per un premio di maggioranza eccessivo in assenza di soglia si ripetevano con il ballottaggio. Il ballottaggio era un tentativo di eludere semplicemente quello che era stata la decisione della Corte Costituzionale sul Porcellum, che è chiaro che se al ballottaggio arrivano due partiti, uno rappresenta il 25 e l'altro il 26, e questo viene portato al 54, quello che vince. Quindi di fatto c'era il medesimo effetto ipermaggioritario che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo sul Porcellum. È per questo che io non capisco come i partiti queste cose non le diano per scontate, però vabbè, sì, giudizio mio. Questa probabilmente è sciatteria normativa, cioè era evidente che con una sentenza di quel tipo, però probabilmente per il partito che qui premier ha vinto con 40% alle elezioni europee, forse ha caricato da quel risultato, ha tentato di riproporre uno schema analogo, però evidentemente incontrava un vizio assolutamente evidente di costituzionalità. Quindi è stato dichiarato, diciamo, illegittimo a metà, però nel cuore della previsione che aveva. Io ricordo che all'interno della commissione del governo Letta si era ventilato un'ipotesi simile, però andava alla coalizione. È molto diverso dire che vada alla coalizione piuttosto che alla lista. Perché allora la lista, l'effetto maggioritario... No, ma questa era una riproposizione, ignorando la Corte Costituzionale, non capisco con che speranza che cambiasse idea, appunto. Ma coerente alla vocazione maggioritaria del solo PD, punto, questo era. Sì. Ecco, poi dopo, una piccola riflessione su quello che diceva lei, la Seconda Repubblica effettivamente, come diceva lei Giannino, è partita con l'idea, il potere all'elettore, l'elettore sceglie, con un sistema maggioritario, tu in un collegio piccolo giudichi la faccia del candidato, quindi quello se va bene oppure no, e lo pesi, costringe i partiti a presentare candidati credibili. Tutto questo era il miraggio che veniva ventilato nel passaggio al maggioritario. Sì. L'esito finale è un Parlamento di nominati. Sì. Quindi qualche domanda dobbiamo porcela, se ha funzionato oppure no. Il miraggio si è dimostrato quello che era. Siamo finiti con un Parlamento di nominati, no? e due leggi dichiarate incostituzionali, quindi qualche riflessione dobbiamo farla. Rimangono i capilista bloccati, con anche un meccanismo che potrebbe essere paradossale, perché c'è il meccanismo, allora non sono più liberi di scegliere dove candidarsi, ma si decide tramite sorteggio. No, seggio diciamo attribuirgli, si va con sorteggio. Però sorteggio potrebbe anche dare risultati paradossali. Esatto. Mettiamo che io venga sorteggiato in un seggio dove c'è mister preferenza come secondo. Esatto. Quello che ha preso più preferenze di tutte. A questo punto è ancora è legittima che questo non venga eletto nonostante appunto abbia raccolto migliaia di preferenze. Ma... e magari salga un altro che ne ha prese pochissime dall'altra parte. Qualche problema qui dentro si pone anche di legittimità costituzionale, quindi diciamo che la Corte non aveva alternativa perché è un legislatore negativo, quindi non può costruire le norme, può solo dichiararle illegittime e lasciare in piedi un sistema, però qualche problema di costituzionalità su questo meccanismo del sorteggio, a mio avviso, rimane. Non bisogna aspettare il risultato delle motivazioni della sentenza per capire perché non ha dichiarato illegittimi i capilista bloccati, certo nel porcellum, ma non le liste bloccate. Qui erano i soli capilista, con questo escamotage però delle candidature plurime e poi della possibilità di scegliere dove e quale seggio farsi attribuire, che effettivamente era un'altra elusione della sentenza sul porcellum, una chiara elusione della sentenza sul porcellum. Rimane quella disomogeneità di cui diceva lei, che da un certo punto di vista è anche fisiologica, perché noi appunto, come ricordava, abbiamo un Senato eletto a base regionale. Però è anche una disposizione della Costituzione che, se noi leggiamo anche tutti i lavori preparatori, eccetera, non deve essere enfatizzata. Qui si parla da una parte di coalizione al Senato e dall'altra di lista, cioè dei partiti. Dall'altra la misura dei tetti per l'accesso è molto diversa. E naturalmente, vista la molto minore ampiezza del collegio regionale rispetto a quelli, mi pare che in realtà, anche vista l'ampiezza dei collegi, gli effetti saranno completamente diversi. Gli effetti saranno diversi, sì, c'è una disomogeneità rispetto alla quale evidentemente sarebbe opportuno un intervento legislativo che non enfatizzi troppo questa questione della base regionale, perché diciamo c'è parecchia dottrina, e io anche appartengo a questa, che dice che tutto sommato era un'indicazione che non è che deve portare a quei risultati cui ha portato per esempio nel Porcellum, per cui il premio di maggioranza veniva assegnato a base regionale. Quello era un eccessivo peso dato a quella disposizione, non era necessario così. Col Porcellum, ma a mio avviso poteva rimanere un premio di maggioranza a base nazionale anche al Senato. Quindi è stata un'interpretazione forse eccessivamente rigorosa di quella disposizione a base regionale che ha, diciamo, reso complicato il sistema, no? Per cui poiché aspetti però, siccome non voglio chiedere a lei interpretazioni su cosa potrebbe avvenire politicamente, perché qui lei è in veste tecnica, però tecnicamente glielo posso chiedere, poiché esiste, se uno vede le dichiarazioni dei partiti all'indomani della sentenza di ieri, una volontà preminente era l'ipotesi B espressa da Renzi e l'ipotesi A espressa sia dalla Lega che dai 5 Stelle. Estendiamo anche al Senato il meccanismo di fondo che viene dalla Corte Costituzionale, limando i contrasti più evidenti tra Senato e Camera. Per esempio, che come si potrebbe fare? Perché questo naturalmente significa, se è complicato non si vota a giugno, se è facile si può anche, vedremo poi le condizioni politiche, ma tecnicamente votare a giugno. È facile secondo lei limare il Senato in maniera tale che sia pur con differenze ma resti non contraddittorio agli esiti di una comune maggioranza espressa nelle due Camere per un governo la legge elettorale attuale del Senato rispetto a quella della Camera disegnata ieri? Ma dal punto di vista diciamo della struttura normativa non mi sembra complicato. No, non mi sembra complicato, perché appunto la legge elettorale del Senato non ha più il premio di maggioranza base regionale, perché la Corte l'ha fatto cadere. L'ha levato. Quindi i due sistemi sono abbastanza omogenei, salve le differenze di cui diceva lei. Certo, se c'è la questione di riscrivere i collegi, quella non è un'operazione che si fa in due giorni. Questo è il problema, cioè ridisegnare i collegi, tra l'altro, ha anche un peso politico piuttosto enorme. Enorme. Quindi diciamo, concludiamo questa prima parte tecnica. A seconda di quale sarà l'opinione prevalente della maggioranza dei parlamentari, al di là di quello che dicono i capi partito in Camera e Senato, anche questo adeguamento tecnico potrebbe prendere tempo a rivelarsi non così semplice. Mi sbaglio, professor Antonini? Potrebbe non rivelarsi. Ecco. Allora, intanto la ringrazio per questa, la chiarezza delle sue opinioni. Andiamo al traffico e poi dopo abbiamo, per capire a oggi cosa avverrebbe con le attuali preferenze di voto con questo schema di proporzionale puro, tranne che qualcuno porta a casa il 40,1% dei voti, Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qua, rapidissimamente rispondo ad alcuni dei vostri sms, raggruppo per tipologie. Alcuni dicono, ma Giannino, ma noi il premier non lo sciogliamo con tutti questi governi tecnici scelti dal capo dello Stato? Sì, forse non l'avete capito, non lo sceglierete mai più, perché col proporzionale, per fare maggioranza, e oggi sarà molto problematico, voi non saprete in campagna elettorale chi sono i candidati premier, e nel proporzionale, per arrivare a maggioranza risicate, comanderà il partito più piccolo, che avrà il più forte potere di veto e di influenza, e quindi il premier sarà figlio di contrattazioni, come avveniva nella prima repubblica, quindi fine del potere degli elettori di scegliere il presidente del consiglio. Non so se è chiaro, dopo tanti anni di polemiche sul fatto che li nominava solo il capo dello Stato senza farci votare, punto, finita, non c'è più la vostra facoltà di sceglierli, neanche indirettamente come era il modo della seconda repubblica, improprio perché non hanno voluto cambiare la forma di governo e hanno fatto leggi elettorali regolarmente bocciate dalla corte. E altri mi dicono, sei troppo polemico verso i partiti. Io? Vabbè, ok. Allora, sentiamo da Roberto Weber, il presidente dell'Istituto XE, prendendo alla lettera la legge disegnata ieri per gli interventi della Corte bocciando il ballottaggio, quindi diventa proporzionale puro con elevatissima improbabilità che qualcuno porti a casa il 40% dei voti, almeno andando a vedere lo storico degli ultimi anni dei sondaggi. Cosa avverrebbe, cosa si può immaginare che avverrebbe nella rappresentanza in vista di formazione, di coalizione di governo, guidate da chi, come, ma insomma che tipo di maggioranza? Buongiorno e grazie di essere con noi, Roberto Weber. Buongiorno, è abbastanza complicata e complessa la cosa. Complessa già di per sé, poi complicata, è stata resa complicata da alcune scelte prima del governo, ma anche da questa cosa della consulta che obiettivamente costringe il Parlamento ad intervenire in tempi che vedremo. Allora, dal punto di vista, intanto alla Camera, per quanto riguarda la Camera, il discorso si può anche fare, ci sono i sondaggi, si possono leggere i sondaggi, capire più o meno di quanto può crescere il PD o di quanto può crescere il Movimento 5 Stelle, per esempio, capire se c'è la possibilità di un meccanismo di coalizione a centrodestra, in che termini, non lo so, no? Ma i numeri sono quelli. Per il Senato è ancora più complicato, però, perché sappiamo che se resta lo schema dei partiti, il partito deve avere almeno l'8% dei voti, no? E questo coalizione, complica. Perché lì al Senato si parla di coalizioni, non di partiti. Sì, ecco, e si va di coalizione, perfetto. L'8% anche vale per chi ci va da solo. Ecco, per chi ci va da solo, appunto. Però se si va di coalizione, capisce che dal punto di vista delle dinamiche politiche completamente diverso. Della riconoscibilità, no? Certo. delle forze politiche davanti agli elettori, ci sono problemi seri. Cioè Alfano cosa fa? Per capirci, la sinistra, che ben difficilmente va all'8%, no? Cosa fa? Quindi paradossalmente prima avevamo un problema di rappresentatività, no? Sì. Questo, no? Adesso abbiamo un problema di governabilità, sicuro, questo è scontato, no? Ma anche di rappresentatività, se le cose restano così. Se invece cambiano, vanno a Mattarello, cambia tutto, ma non si vota subito, si vota molto più in là, e francamente io non vedo questa forza, questo animo dentro nemmeno io. Il Parlamento, anche perché per fare un Mattarello bisognerebbe immaginare che PD e Forza Italia votano insieme. Berlusconi ha già detto, io voglio il proporzionale, Berlusconi va bene così, perché non si potrebbe candidare anche se si vota l'anno prossimo e magari la Corte dei Diritti gli lo rende di nuovo ricandidabile, un candidato premio non lo può fare lui, quindi gli va meglio il proporzionale. Diciamo che le cose sono abbastanza complicate, poi se il tempo passa, però agiscono fattori vari, insomma. Imponderabili. Imponderabili. Se vince la Le Pen a marzo, come possiamo sapere questo come influenza il dibattito politico italiano di qua? Esatto. Due ce ne sono, però, due fattori li conosciamo, li abbiamo visti, anzi tre se vuole. Uno, parlo dal punto di vista dei sondaggi, no? Di quello che il sondaggio sì. Può rendere, poi rendere più esplicito. Uno, ne ha parlato l'altro giorno Diamanti, no? Questa crescita, questa domanda dell'uomo forte. No? Purtroppo però in un quadro che è tripolare o quadripolare come il nostro, non so come, è l'uomo forte dei propri, ha capito? Sì. Quindi si spezza quell'equazione. Non c'è dubbio, anche perché il proporzionale ciascuno ha mani libere, ciascuno può andare sull'identità massima della propria forza politica, non è portato a riconoscere un premier di una coalizione. Questa è una prima cosa. Una seconda cosa che sta aumentando, vabbè, l'abbiamo vista già in azione, ma incrementa, no, via via che il tempo passa, è questo dato del questo tratto di rancorosità. Ah, non c'è dubbio. No, è la terza e la quarta, che, rapidamente? È la terza, si porta dietro, e la rancorosità si porta dietro questo, questa chiave di vittimizzazione. No? I cittadini si abbiamo visto con il terremoto, con con il dibattito intorno. Allora, queste dimensioni qui non sappiamo come possono. Benissimo, quindi come, ma io questo sapevo, mi aspettavo da lei. Quindi guardate quanti punti interrogativi, eh? Ringraziamo i partiti di tutto questo bel casino, vedremo come lo affronteranno. Presto o tardi, io credo che non si voti. Posso sbagliare, però nel 2017 questo significa per Renzi il PD tanti problemi, per il centrodestra. Vedremo, ma insomma, ci sono più, molti più punti interrogativi che le certezze. Che allegria! Continuate, sono le 24, appuntamento con me, Alessandro Mino, domattina alle 8:20, attenti noi due.